Friuli nel mondo. 146esima trasmissione dedicata agli emigrati. Omaggio al Friuli. Con l'addizione di Ottavio Valerio e con l'interpretazione del quartetto Stella Alpina di Cordenons, composto da Ettore Travanut, Adriano Turrin, Donato Marson e Sergio Mion, vi presentiamo due poetici componimenti corali ricchi di genuina, serena spiritualità. Iniziamo facendovi ascoltare la stupenda poesia di Enrico Fruch dedicata ad Aquileia, figlia di Roma, e che Oreste Rosso ha rivestito con toccanti, solenni note che riecheggiano l'antica liturgia aquileiese. Contadin, che tu rompi slattiare di Aquilee, ferme i bus un momento. Sotto il chiam che la guardi neare, sotto la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre del nul, è una impronte di Rome, e la storie e la glorie del nestri Friul. Barcarul che tu vengs di Barbane, quan calzune l'antique chiampanil, no tu sintis un glon di chiampane, ma un nevos che ti rive dal cil, e l'eterne per aule ti dis, un nevos che traviarse la storie, e la gloria del nostri paese. Pellegrine de ultime uere, mari sante del nostri soldat, che besole tu entris la sera a prea, sotto i pings del sagrat, scolte, scolte la iul rusignul, che ti puarte con tante dolcezze la chiarezze del nostri Friul. Tal seren di une clare mattine, ecco, e rit la marine la infonz, alzei voi, o giarnazie latine, su che blanche corone di Mons, sul Friul, e ten fede all'idee che no mur, alla grande memorie e alla glorie de nestre Aquilee. Contadin, che tu rompi slatiare di Aquilee, ferme i bus un momento, sotto il chiamp che la guardi neare, sotto la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre dal nul, è una impronte di Rome, e la storie e la glorie del nestri Friul. Se la storia e la gloria Ed infine, con le parole e con la melodia lenta e triste del chant dell'emigrant, nel quale Arturo Zardini ci fa riconoscere un Friuli accorato e dignitoso, chiudiamo questa breve trasmissione che vuole essere un piccolo omaggio all'anima semplice e gentile della gente friulana. Un dolor dal cur mi ven, tut io devi abbandonà, patrie, mame, ogni ben, e pal mond mi toglie là. zaio viodlis lagrimutis, dice l'agnula spuntà, e bussandlis sos manutis, io idis, mi toce là. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.